Friuli nel mondo, 88esima trasmissione dedicata agli emigrati. Tu a tu con un coro friulano. Prima di farvi ascoltare, cari amici lontani, alcune fra le più belle e nostalgiche villotte, vogliamo sentire dalla viva voce del maestro Cavalier Leandro Plenizio qualche notizia relativa alla data di fondazione, all'attività passata e ai programmi futuri del coro di San Lorenzo di Sedeliano, piccolo centro del nostro Friuli. Ci vuol dire, caro maestro, quando nacque il coro? Da quanti anni lei lo dirige e quanti sono gli elementi che lo compongono? Beh, il coro non ha una vera data di nascita, in quanto che le sue radici affondano nei secoli. Io ricordo il più vecchio corista, morto a 94 anni quando io ero bambino, che diceva di aver sentito cantare suo nonno. Il coro poi è stato rinnovato più volte. Io lo dirigo da 30 anni e gli elementi attuali che compongono il coro sono circa una quarantina. Qual è, maestro, il suo repertorio preferito? Il repertorio preferito è quello delle antiche villotte, che portano un senso di nostalgia agli emigranti e piacciono molto anche ai nostri paesani di qui e di tutti i paesi del Friuli, dove noi ci rechiamo spesse volte per cantare. Ora, secondo lei, quali sono le ragioni che hanno permesso al coro di vivere così a lungo, ma in modo particolare di essere oggi tanto validamente attivo? Le ragioni sono semplici, in quanto che il coro è formato di famiglie, tanto che noi abbiamo nel coro quattro fratelli con i rispettivi figli, abbiamo avuto cinque sorelle che cantavano il coro. Questa è la ragione principale, di modo che il coro si può chiamare una famiglia. E siccome il coro ha avuto tanti elementi in questi ultimi 30 anni, secondo lei quanti sono i coristi oggi all'estero? I coristi all'estero saranno almeno quattro volte quello che il coro attuale. Abbiamo un piccolo coro a Vancouver, abbiamo un piccolo coro a Buenos Aires, abbiamo un piccolo coro in Australia e poi ne abbiamo in tutte le parti del mondo. Grazie maestro per queste brevi notizie, ma ora che cosa vuol far ascoltare al grande pubblico friulano sparso nei cinque continenti? Io direi per primo di iniziare con quello che è il canto un po' del Friuli, il chant de filologiche furlane. Non so. Bravissimi! Ed ora che cosa ci farà ascoltare il suo coro? Il coro ora vi farà ascoltare Isarchest il Troi di Braide, Giovanin color di rose e l'hai domandate di Samide. Ho letto in questo momento uno spartito dal titolo Alvaive Antiel Soreli. Che villotta è questa? È una villotta che il coro questa sera vuol dedicare a tutti gli emigranti friulani sparsi per il mondo. Grazie al maestro e soprattutto ai coristi. Ed ora, amici del coro, volete dire voi una parola ai friulani sparsi nel mondo? Mandi Friulans, Willi Frulune! Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 88esima trasmissione dedicata agli emigrati, a cura di Ermete Pedizzari. Ha cantato il coro di San Lorenzo di Sedeliano.